La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, l'appuntamento del sabato con il cinema di Radio 24 ritorna con una settimana da una decina di nuove uscite in sala con un capitano, anzi il capitano, Capitan America, con il suo Civil War, il terzo episodio della saga di questo supereroe che arriva nelle sale, è partito subito forte, poi lo esamineremo sotto il profilo della qualità, ma non è l'unico film interessante di questa settimana, una settimana nella quale avremo anche da raccontarvi spettacoli dal vivo importanti che hanno a che fare con il cinema e come sempre giocare insieme per vincere i nostri film, i film più belli della stagione con il nostro DVDM. Allora cominciamo subito con la prima proposta, la prima novità in sala di questo weekend, che si intitola Stonewall, è diretta da una vecchia volpe come Roland Emmerich e racconta di un mondo fine anni 60 nei quali il tema dell'omosessualità esplodeva fragorosamente. Siamo un'organizzazione che lotta per i diritti degli omosessuali. Questa è una retata, tutti contro il muro. Che hai da guardare, Finocchio? È questo che noi combattiamo. Perché non fate niente? Aiutatemi! Non hanno più niente da perdere. Faremo una parata per commemorare la lotta e la chiameremo Marcia della Liberazione Omosessuale. Vengo anch'io. Benvenuto a New York. E non mollare. E allora, questo è un po' un assaggio di questo film, interpretato da Jeremy Irvine, Johnny Beauchamp, un cast che, se si è certo, forse Jonathan Rhys-Meyers non ha nomi altisonanti, ma che racconta una storia importante, come dicevamo, fine anni 60, la storia di un liceale dell'Indiana, quindi di un'America più interna, meno metropolitana, che sogna di arrivare alla Columbia University, coltiva nel frattempo un amore per un suo amico. Quando questa omosessualità viene scoperta, chiaramente la famiglia lo caccia, come si usava ai noi fare all'epoca, e il ragazzo parte per New York quasi costretto, cercando di cavarsela da solo. Arriva al Greenwich Village, che era un posticino piuttosto pimpante all'epoca. Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris. Ciao Franco. Allora, intanto ti abbiamo salvato, in questo fine settimana da una cosa tipo Revenant, dove saresti andato in foreste di notte senza mangiare e già ero piegato dalle risate quando me l'hai detto. Quindi dovresti ringraziarci per essere ancora vivo. Esattamente, ma non escludo di farlo comunque. Ecco, basta che non inviti me. Detto sì. Questo, era un posto pimpante, ma la Greenwich newyorkese di quella fine anni 60. È pimpante anche il film che porta la firma di un espertone come Roland Emmerich? Sicuramente quella Greenwich era un posto più vivo e vitale dei Monti Levini, dove avrebbero fatto questo lancio molto particolare del DVD di Revenant. Detto questo, Stonewall è probabilmente la sorpresa più grande che ci riserverà questo anno cinematografico, e nella parola sorpresa non c'è una considerazione di valore, nel senso che è proprio sorprendente immaginare Roland Emmerich alle prese con un film sul movimento LGBT, sul modello di Milk, perché nella storia cinematografica di uno come Emmerich l'unica cosa che potevi pensare a questo tema era probabilmente una comunità di alieni omofoba che arrivava nel mondo e cercava di distruggere la minoranza omosessuale. Scherzi a parte, è molto interessante il tentativo che fa quest'uomo, che ha fondato il suo cinema sull'azione, sugli effetti speciali, a suo modo anche sull'impegno, perché se si pensa all'alba del giorno dopo, la scena degli americani che cercano rifugio in Messico, al confine con l'America, con il Messico che apre i confini invece di chiuderli come faceva gli Stati Uniti, è una scena molto politica e molto forte che rimarrà nel nostro immaginario. Certo che qui cambia completamente stile, perché a suo modo questo è un film molto pudico, molto sentimentale, dal suo cinema passato ha solo la lunghezza, che comunque è di 2 ore e 10. È un film però che evidentemente non è comunque nelle corde di Emmerich, un po' perché rimane del passato la sua abitudine a tagliare con l'accetta i sentimenti, la visione delle storie la scrittura narrativa e visiva, cioè non riesce in un film così a trovare le sfumature necessarie invece ad essere raccontato, perché chiaramente una cosa è raccontare di mammut o di glaciazioni, una cosa è raccontare di sentimenti, di emarginazione, di drammi privati, e lui invece continua ad avere quel tipo di approccio ai personaggi, in particolare al personaggio che tu raccontavi del protagonista, che è un bianco benestante che coltiva questo suo amore impossibile per un compagno di scuola e che poi, appunto, cacciato di casa, ripudiato dal padre conservatore, decide di andare in questa comunità, no, di chi si prostituisce fin da bambino, ha vissuto innumerevoli disagi. E lì, siccome lui vuole raccontare una favola, sostanzialmente ci presenta quella comunità come una comunità meravigliosa, che probabilmente lo è anche, ma che sicuramente ha dietro delle tragedie enormi che non puoi non considerare. E così Stonewall rimane una cosa che in superficie cerca di scimmiottare un po' Milk e che nei costumi, nell'estetica, prova a copiare Fassbinder, ma che davvero sembra fin troppo ingenua e lineare rispetto a quello che un argomento del genere potrebbe portare avanti. Per il pubblico di Emmerich, però, paradossalmente potrebbe essere interessante, perché il pubblico di Emmerich, diciamo che è un po' tagliato con l'accetta come lui, e forse potrebbe essere un interessante inserimento all'interno di temi che probabilmente non valuta, perché è un pubblico molto testosteronico. Assolutamente, una sorta di cavallo di Troia, se vogliamo, no? Esatto. Per arrivare, questa è la cosa molto importante di questo film, far arrivare un certo tipo di messaggio su un pubblico che tendenzialmente non lo avrebbe mai scoperto se si fosse trattato dell'ennesimo film d'autore o di un punto di vista diverso. E allora questo è Stonewall, tra l'altro un titolo che riecheggia un po' western, se vogliamo, no? Per cui aiuta anche in questo senso. Stonewall, il primo film di cui ci siamo occupati. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Ci aspetta un super classico come Robinson Crusoe. La rosa purpurea. La rosa purpurea prosegue con un secondo film tra quelli che arrivano in sala in questo fine settimana. Entriamo un po' in un territorio che è il territorio family, quello in cui si può andare al cinema con i bambini, per esempio a vedere questo Robinson Crusoe, che è l'ennesimo trattamento cinematografico di una storia, di una vicenda, quella del libro di Dafoe, che porta in scena appunto il naufrago forse più famoso del mondo, insieme al suo amico, che in questo caso è un pappagallo e si chiama Martedì. Come riuscirò a sopravvivere su quest'isola? Cosa sta facendo? Sta costruendo un nido per umani sull'albero. Che ne direste se lo aiutassimo? E adesso che cosa succede? Pirati? Avanti, miei prodi! Li abbiamo circondati! All'attacco! Il fuoco! Cruso! Grazie, Scrubs! Non ce l'avrei fatta senza di voi! Le atmosfere, avete sentito, sono quelle proprio dell'animazione più contemporanea. Il pappagallo Martedì vive su quest'isola esotica quando all'improvviso una nave naufraga e arriva davanti a questo popolo di animali, l'unico superstite insieme a pochi coraggiosi che lo aiuteranno a sopravvivere sull'isola. Boris, com'è andata secondo te questa incursione animata in uno dei classici della letteratura d'avventura di tutti i tempi? Diciamo niente male, nel senso che è molto interessante questo aspetto di un sottogenere che arriva, che anzi ritorna, perché insomma si era reso a piene mani nella letteratura in passato e adesso si ricomincia, no? Dopo Gulliver in passato, Il libro della giungla, adesso si ricomincia o con alcuni stessi classici o con altri. E la cosa interessante del libro della giungla di Robinson Crusoe, che qui escono a poco tempo l'uno dall'altro, è che il tentativo è, da una parte, la semplificazione per un pubblico più piccolo, e ci sta pure, e dall'altra un tentativo comunque di rovesciamento di visione. Nel caso del libro della giungla era andare più incontro a Kipling rispetto che al modello disneyano, qui è il ribaltamento di prospettiva, cioè che cosa succederebbe se noi vedessimo Robinson Crusoe non dalla parte di Robinson Crusoe, cioè come avevamo sempre fatto, ma dalla parte degli animali che lo vedono arrivare sull'isola deserta. e che lo vedono come un mostro marino, cioè lo vedono come un altro animale tra gli animali, molto strano, e che può turbare il loro equilibrio o comunque integrarlo. E questa è un'idea, una piattaforma di partenza molto molto interessante, soprattutto se rivolta come questa, ed è evidente fin dal trailer, a dei bambini molto piccoli che comunque hanno una visione più semplice e più immediata. È divertente perché l'uomo non viene mai presentato come più importante, quindi è un racconto di amicizia tra specie diverse dove in queste specie non c'è una gerarchia, quindi noi vediamo tutte le stranezze di noi uomini dagli occhi degli animali, e per quanto possiamo sembrare strani in questo senso. Il problema di Robinson Crusoe è che secondo me questo fattore sorpresa, questo fattore di divertimento e di spaesamento si esaurisce un po' troppo in fretta, e a un certo punto diventa una replica un po' stanca della stessa idea, con poi gli stilemi classici dell'animazione moderna, cioè quegli animali antropomorfi che alcuni hanno un ruolo appunto di spalla come il pappagallo, altri hanno il ruolo di villain o di elementi comici come possono essere i gatti e così via. È quindi un'ottima idea, la porta a casa diciamo con dignità, ma non fa il salto di qualità, nonostante secondo me potesse avere molte più possibilità di fare un passaggio superiore. Una cosa interessante per i nerd più o meno che hanno tra i 35 e i 45 anni, l'estetica è incredibilmente simile al videogioco Monkey Island e denuncia secondo me anche l'immaginario non molto esteso dei registi, però insomma sarà un fattore nostalgia che potrà attirare molti non tanto piccoli che sono rimasti legati nella propria adolescenza al gioco di quel videogioco. E questo è Robinson Crusoe, quindi la seconda delle proposte nuove nel weekend cinematografico. Adesso è arrivato il primo momento ludico della nostra trasmissione, come sempre due tracce, la prima la sentirete subito, di un film misterioso che dovete indovinare. Voi avete visto cose che nessun altro ha mai visto. Come possiamo conoscere gli oscuri segreti del mare? Allora, attenzione, perché la prima frase può sembrare appartenere a un altro film, ai meno attenti. Fidatevi un po' della seconda, quella sul mare. E allora, se avete già capito di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. È il momento di passare a un autore, Michel Gondry, che io personalmente adoro, che non fa mai film banali, anzi ha reinventato sostanzialmente dei generi. Pensate a film più riusciti, come per esempio L'arte del sogno, come per esempio il bellissimo Se mi lasci ti cancello, o come per esempio Be Kind Rewind, divertentissimo, anche i meno riusciti come Mood Indigo, per esempio La schiuma dei giorni, dove però c'era tanta idea di cinema. Stavolta si misura Michel Gondry con un film, se vogliamo, un pochino più contenuto, almeno nella storia, nella trama, che si intitola Microbo e gasolina. Puzzi di gasolina. Mi sono rotto di sentirmi chiamare microbo. I bulli di oggi sono le vittime di domani. Non hai mai sognato un'indipendenza assoluta? Di poter andare dove vuoi senza dover rendere conto a nessuno. Noi creeremo una macchina. Avanti tutta e senza ritorno, verso la libertà. Proviamo a spingere fino a Nemur. Non ce la faccio più a spingere. Se vuoi essere un mio amico devi avere uno spirito libero, considerando la mia popolarità. Dammi 5. Io non do al 5, è volgare. E allora, Microbo e gasolina, Michel Gondry, la storia di un ragazzo appunto microbo, un ragazzo timido che ha sempre un po' la testa dentro i suoi disegni, gasolina invece un ragazzo brillante, pieno di inventiva, i due diventano grandi amici a scuola e all'avvicinarsi delle vacanze nessuno vorrebbe passarle con i propri genitori, e allora ecco che entra Michel Gondry con il motore di una falciatrice e poche asse di legno costruiscono la loro personale automobile con la quale partono alla conquista delle strade della Francia. In quest'ultima descrizione, Boris, c'è dentro tutto Michel Gondry. Assolutamente sì, è un film adorabile, lo diciamo subito. Io ci ho ritrovato il Michel Gondry che avevo perso nella schiuma dei giorni. Sono d'accordo con te che sia un regista straordinario. È veramente un creatore di immaginario che pesca, io lo chiamo film bricolage, perché pesca nel nostro immaginario, nei nostri oggetti dell'infanzia che sembrano marginali e che però hanno costruito poi la nostra fantasia. Qui tra l'altro lui si mette alla prova con un film leggermente diverso, anzi molto diverso da quelli che aveva fatto in passato, perché intanto si porta avanti un romanzo di formazione secondo un'estetica più pop del solito, e dall'altra parte pescherà la sua autobiografia, perché non è partito dalla provincia per andare a scoprire il mondo su una casa su due ruote, appunto, con una falciatrice, però poco ci mancava, insomma, e racconta la sua educazione sentimentale e di viaggio, e parlo di viaggio reale e viaggio nella fantasia, con una favola divertente di due ragazzi che evidentemente sono emarginati, perché hanno una sensibilità più spiccata, laddove insomma magari nell'adolescenza si trovano bulli, si trovano ragazzi più tagliati con l'accetta, e loro decidono di prendersi la loro vita tra le mani e andarla a scoprire a bordo di questo veicolo molto molto particolare. Gondry mischia quello che aveva fatto in passato, cioè cercando di innovare, rivoluzionare l'immaginario, e un genere che più classico non si può, che è quello del buddy movie anni 80. Il mix è riuscitissimo, la tenerezza dei personaggi che però hanno anche le loro ruvidità, penso a Gasolina, che è un ragazzo affascinato dai motori, molto particolare, dall'altra parte invece Microbo, che come denuncia anche il suo soprannome è introverso, è molto riflessivo, vive una passione per una compagna di classe che non confessa, e si incontrano e in qualche modo si completano e si aiutano l'un l'altro. Microbo diventerà grande, avrà il coraggio di dire e di fare quello che non pensava potesse essere possibile. Gasolina capirà che c'è qualcos'altro nella vita oltre i motori, oltre le sue passioni. Ne esce fuori una favola che può sembrare persino banale nella sua struttura, ma che Gondry poi innerva di tutto quel talento, di tutti quei colori, di tutte quelle forme, e appunto di tutto quel bricolage emotivo e materiale che rende così speciale il suo cinema. Quindi davvero per me è il film della settimana, perché ci fa tornare tutti ragazzi e allo stesso tempo ci fa ripercorrere quel difficile percorso che è l'entrata nell'età adulta o nella maturità con una dolcezza infinita. E allora, questo è uno dei film della settimana sicuramente, di Michel Gondry, Microbo e Gasolina, tra l'altro meno male per una volta rispettato il titolo originale francese, Microbe et Gasoil. E allora, adesso pausa, regia, però state lì perché fra poco vi aspetta Capitan America. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 800 28 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. La rosa purpurea. Capitano, molte persone la vedono come un eroe. So che Bucky è importante per te. Se non possiamo accettare le regole, siamo come i cattivi. Io non la vedo così. Voglio essere sicuro di considerare tutte le opzioni. Quelli che ti sparano addosso, spesso sparano addosso anche a me. Mi dispiace, Tony. Sai che non lo farei mai, ma non ho scelta. Lui è il mio amico. Lo ero anch'io. E poi spari, e poi esplosioni, e poi combattimenti. Capitan America Civil War, avete sentito la clip del film di Anthony Russo e Joe Russo con il solito cast... A tutto eroe, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, eccetera, eccetera. Allora, Capitan America, terzo capitolo della saga di questo supereroe, uno degli ultimi a essere arrivati in pellicola, uno dei più americani e anche uno dei più pensosi, se vogliamo, no? nel suo spirito. Qui riguadagna, tra l'altro, anche la presenza di un giovane imbranato Spider-Man. Siccome so che il parere, abbastanza condiviso con Boris Sollazzo, è, diciamo, non del tutto positivo per quello che poi nei suoi tantissimi minuti, 146, cioè quasi due ore e mezza di svolgimento, il film riesce a dare, voglio subito mettere lì un paio di punti interessanti. Rimane interessante in modo di vedere il fatto che questa saga sia quella tra i supereroi, forse al di là di un certo periodo di Batman che cerca di essere più riflessiva, più colta e raffinata, diciamo così, nelle battute. Forse sarà la presenza del personaggio di Robert Downey Jr., che ormai però spesso avvicina lo stereotipo, nel senso che ti aspetti da Iron Man quel tipo di battute e quel tipo di posizioni. Sarà che, diciamo così, Capitan America qui è il cattivo, fra virgolette, nel senso che, come avete sentito dalla clip, in questi due schieramenti di supereroi nei quali qualcuno vorrebbe stare dalla parte della legge, magari legandosi le mani e non intervenendo più a petto in fuori su tutte le disgrazie del mondo, ma un'altra parte invece dice dobbiamo fregarcene della legge perché noi siamo la legge, dobbiamo sistemare le cose del mondo. Ecco, la parte del poliziotto cattivo o del John Wayne della situazione la fa Capitan America. Ecco, questi potevano essere aspetti che potevano dare una terza dimensione a un film, Boris, che invece rimane assolutamente in 2D di nome e di fatto, potremmo dire. Quasi in 1D, direi, perché è abbastanza sconcertante che le saghe fantaeroistiche che hanno anche rivoluzionato il cinema, io non ho nessuna intenzione di avere una posizione snob e trovo che la Marvel abbia introdotto all'interno di questo immaginario, prima nei fumetti e poi nel cinema, l'idea che i supereroi fossero anche metafora del potere, dei superpoteri e di tutto ciò che ci viene attorno, cioè anche una riflessione filosofica, no? Che va da Nietzsche fino a George W. Bush, per intenderci. Il problema è che noi siamo passati dai supereroi con superproblemi a un momento in cui si raccontavano sia da parte di Marvel sia da parte di DC dei personaggi più marginali, più ironici, più outsider, da Ant-Man a Deadpool, per poi arrivare al grande scontro finale, tra virgolette, cioè al momento in cui bisognava riflettere sul pantheon dei supereroi, su quanto spazio si poteva lasciare a delle persone che si consideravano oltre e sopra la legge. La verità è che però questa per ora al cinema è una missione fallita, perché sia da una parte Batman vs Superman sia adesso Capitan America banalizzano incredibilmente quello che invece su carta era stata una progressione straordinaria, culturale, filosofica, estetica ed etica, che aveva sviluppato anche una riflessione politica di grandissimo spessore. Civil War lo è ancora di più, perché Civil War metteva contro l'emblema del potere economico e politico Iron Man con quello più etico e assoluto di Capitan America. All'interno del fumetto questo si risolveva in una divisione lacerante tra i supereroi che dovevano sostanzialmente combattere tra la loro identità e quello che rappresentavano in un mondo moderno per tutto il consesso sociale e civile e politico. E qui si dà forse il compito ai registi sbagliati, cioè sono dei registi molto interessanti, furono scoperti da Soderbergh con Welcome to Hollywood, poi fecero una commedia abbastanza strana come Tu, Io e Dupree, e poi sono stati insomma catapultati nel universo Marvel, forse per innervarlo di contenuti diversi, ma ne sono stati sostanzialmente fagocitati. Che cosa succede? Abbiamo un film che sembra un film, nel, se vogliamo essere buoni, propedeutico ai prossimi. Cioè tu hai l'impressione che dopo due ore, delle due ore e mezza, ancora il film non sia realmente iniziato, abbia solo posto delle basi. E il problema è che da una parte effetti speciali, scontri, momenti epici siano piuttosto banali, cioè non vengano raccontati con la grandiosità a cui siamo abituati. Dall'altra, la riflessione intima e collettiva che presuppone questa Civil War viene risolta con una scrittura, una sceneggiatura molto banale, non banale come quella di Batman vs Superman, ma estremamente banale. Forse la fotografia maggiore è proprio questo Spider-Man goffo adolescente di Tom Holland, che invece su carta è il centro della tragica e lacerante divisione che si crea tra i due supereroi e tra i due simboli Iron Man e Capitan America. Sembra un film completamente incompleto e incompiuto, forse dovremo giudicarlo quando arriverà il sequel, Infinity War, però davvero da un film che doveva essere l'inizio di una nuova rivoluzione ci si aspettava molto di più. Ci ritroviamo di fronte a qualcosa che non ha mai un guizzo, che le cui cose più interessanti si fondano su qualcosa che già conoscevamo, come la storia tra Capitan America e Bucky Rogers, che in certi momenti ha sottotesti omosessuali degni del western più conservatore e che comunque rappresenta la cosa più interessante, e di lotta tra due prime donne che sono Robert Downey Jr. e Chris Evans, che però davvero sembra ben poco originale. Io devo dire molto deludente questo Civil War, soprattutto per chi lo conosce attraverso i fumetti. Allora, detto questo, ovviamente il box office se ne frega, nel senso che primo giorno di programmazione Capitan America Civil War, ed era un mercoledì tra l'altro, quindi come dire un giorno decisamente infrasettimanale, 1 milione di euro, così tanto per cominciare, vedremo come andrà, ma lo abbiamo detto mille volte, sono film questi che non hanno bisogno, o forse hanno bisogno magari per fare quel salto di qualità, dal collocarsi intorno ai 10, 11, 12 milioni all'andare decisamente oltre, ma ho come la sensazione che il passaparola per questo film non sarà dei più riusciti. Allora, a questo punto facciamo così, giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso. Eravamo al limite della sanità mentale. Come se fossimo apparizioni, fantasmi. Abbiamo parlato prima di Robinson Crusoe, il cartone animato. Questo nostro game di questa settimana ha qualcosa in comune. Avete sentito prima il mare, qui si parla di fantasmi. Insomma, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. Una delle canzoni più famose, forse la più famosa, di Frankie Valli e dei suoi Four Seasons. Perché? Perché avevamo avuto ospite qui telefonico due settimane fa Claudio Insegno, regista di Jersey Boys, il musical in scena al Teatro Nuovo di Milano. Volevo solo fare una sorta di recall al pubblico della Rosa, perché ho avuto modo di vedere lo spettacolo questa settimana, è davvero strepitoso, quindi l'invito è quello di non perderlo, perché rimarrà fuori ancora una settimana fino al 15 maggio al Teatro Nuovo di Milano, e è un musical di quelli che raramente si vedono in Italia per quanto riguarda le produzioni italiane. A livello canoro, i quattro alfieri di questo spettacolo: Alessandro Mastromarino nel ruolo di Frankie Valli, e poi Marco Stabile, Claudio Zanelli e Flavio Gismondi, che è uno dei nomi più importanti emergenti del musical italiano, sono bravissimi nel riecheggiare queste armonie dei Four Seasons, fatte tutte appunto di accordi vocali. L'orchestra dal vivo dona sicuramente un tocco in più, le canzoni cantate in inglese, in lingua originale, mentre tutto il resto, i dialoghi sono in italiano, danno ricchezza a uno spettacolo che è molto bello anche sotto il profilo della scena, perché è praticamente la versione di Broadway riportata in Italia con un gioco di luci davvero importante. Quindi bravi tutti, andatelo a vedere, perché davvero è un consiglio che vi do con tutta sincerità. A questo punto facciamo così, sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo con l'ultimo consiglio cinematografico per il weekend. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus, la rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, come dicevamo, un'altra proposta fra quelle, le 10 uscite settimanali al cinema, ed è una proposta italiana, una proposta molto particolare per tematica e trattamento. Si intitola La buona uscita, sentiamo la clip. Noi non siamo abituati ai problemi per il semplice fatto che non ne abbiamo mai avuti. Tu sei ancora un poco sprucidello, sei acerbo, questo è il tuo problema. Tu non conosci la parola dignità. La dignità è mediocre. Lascio a te. Denunciare qualcosa di disonesto dovrebbe essere la cosa più facile da fare in un paese onesto. E lo so, mannaggia a me, mannaggia. Ma ok, tutta sta problematicità. Insomma, i toni, l'avete capito, sono quelli della commedia. Interessante anche l'aspetto musicale per raccontare la storia di una donna che se ne frega di essere chiamata ninfomane. Ha avuto quasi 300 amanti occasionali. Quello con cui è meno occasionale è Marco, un altro uomo libero, un uomo ricco, benestante, anche un po' arrogante. Queste due umanità che sembrano veleggiare sopra i guai e i guasti del mondo, a un certo punto vanno un po' in crisi, sono un punto di svolta, perché Lucrezia decide di sposarsi con un uomo molto più giovane, tra l'altro una sorta di paura della vecchiaia, e lui invece ha a che fare con, diciamo così, contemporaneamente con i problemi dell'azienda, della sua azienda, della quale deve organizzare una piccola bancarotta fraudolenta. È interessante il tema di queste umanità altre sul contesto nostro, di una Napoli contemporanea assolutamente non stereotipata, scelta da Enrico Iannaccone, che è il regista di questo film. Boris, è un film che in questo momento è fuori purtroppo solo in poche sale, soprattutto in Campania e poi anche a Roma e a Milano, però è un film che vale la pena andare a scoprire, sono quelle piccole scoperte del cinema italiano che vale la pena andare a vedere, perché come dicevo prima è una cifra quella che ha scelto il regista Iannaccone, totalmente dispari rispetto alla commedia anche della scuola napoletana contemporanea. Giustissimo, io me lo andrei proprio a capare, come si direbbe a Napoli, nel senso che La buona uscita è la dimostrazione di come ci sia questa generazione. Iannaccone è un classe 89 che si è fatta le ossa con dei bei corti, penso all'esecuzione appunto di Iannaccone, e che si ostina in un cinema italiano che ha le sue difficoltà anche nel sovrastare e rompere gli stereotipi, nel fare il film che vogliono, nel fare il film che sentono piuttosto che cercare il pubblico, e alla fine probabilmente lo trovano, perché il pubblico è più intelligente magari di tanti produttori che si sono voltati dall'altra parte quando loro hanno fatto queste proposte. E La buona uscita è molto molto interessante, perché intanto ha due attori secondo me molto bravi come Gia Martire e Marco Cavalli, e aggiungo anche Cioffi, che fa il fratello minore di lui, perché prende Napoli e non c'è mai il sole, prende due che secondo i moralismi, il buon senso comune del moralismo, non hanno una morale, ma che in verità forse hanno semplicemente un bene che molti si sono dimenticati, la libertà. Tanto è vero che in questa Napoli lei più che ninfomane viene chiamata femminone di prim'ordine, perché poi Napoli se ne frega spesso della morale e decide di chiamare le cose come sono, anche in maniera magari un po' gretta e non come dovremmo pensarle. E lui stesso ha la nobiltà di quel villain che magari la crisi l'ha cavalcata e ha avuto successo e non si è fatto tanti scrupoli, ma a cui viene data nobiltà proprio da quella libertà che, per dire appunto, il parente più stretto non ha, e quindi risulta essere un messaggio meschino. L'incontro di queste due libertà è ancora più interessante, perché noi non li troviamo nel loro momento migliore, ma li troviamo quando decidono di scendere in qualche modo a compromessi con la quotidianità, compromessi con i valori comuni, facendo però una scelta che là forse li rende un po' meschini. In questa Napoli che non siamo abituati a vedere, con questi toni da commedia che non siamo abituati a sentire, e devo dire anche con una recitazione diversa, perché la recitazione è volutamente teatrale, perché Iannacone conosce bene Napoli e sa che Napoli sa essere molto teatrale, e quindi qui non serve un parlato o un racconto cinematografico, ma serve quella continua messa in scena che c'è in una città meravigliosa e strana come quella. C'è anche nel parlato, c'è quella borghesia napoletana che si lascia andare magari a qualche parola in inglese, a qualche parola in francese, che ha un'affettazione che sa essere anche un po' comica. Il tutto traccia un quadro molto affascinante che ti cattura l'attenzione, che forse viene un filo rovinato dal finale, in cui il personaggio di Gia Martire non riesce ad essere fino in fondo coerente con quello che ci ha promesso durante tutto il film. Anche lì forse l'autore fa lo stesso compromesso dei suoi protagonisti, cerca di andare dove la gente si aspetta e non dove invece il personaggio dovrebbe andare. Però un piccolo peccato veniale, sono d'accordo con te, è un film che dovremmo andarci a cercare, sicuramente un'interessantissima proposta italiana del cinema. E allora, promosso la buona uscita, noi salutiamo Boris Sollazzo, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Notte, di nuovo grande musica per segnalarvi l'arrivo a Milano fino all'8 maggio, fino a domenica, solo a Milano, unica tappa italiana della tournée internazionale di Sleeping Beauty del geniale coreografo inglese Matthew Bourne, lo ricorderete, anche coreografo tra l'altro dei balletti di Billy Elliot, il film che ha portato una messa in scena en travesti di Swan Lake, del Lago dei Cigni, che è memorabile. Bene, arriva in una nuova provocatoria versione Sleeping Beauty, La Bella Addormentata nel Bosco, con tanti richiami alla fiaba Disney, all'animazione Disney, al Teatro degli Arcimboldi di Milano fino all'8 maggio, quindi assolutamente un altro grande spettacolo dal vivo da non perdere. Così come non vogliamo perdere i vincitori del nostro scorso DVD Game. Perfetto. Allora ci somiglia. Dice, se ci somiglia, è identico. Ancora un piccolo dettaglio. E voilà. E allora, si trattava di Natale con il Boss, uno dei film di maggiore successo, delle commedie che hanno segnato un po' la scorsa stagione natalizia, il periodo natalizio per quanto riguarda il cinema. Lo hanno indovinato per primi e hanno vinto Claudia Pozzato di Gorla Minore, provincia di Varese, e Pierluigi Cavagna, che però ci ha dato un telefono e non ci ha dato la sua città di provenienza. Pierluigi, mi raccomando, lo dico sempre, mettete anche il vostro indirizzo, così possiamo anche comunicare da quale angolo d'Italia arrivate. Adesso cercheremo di trovarti, Pierluigi Cavagna, e di scovarti per mandarti il DVD di Natale col Boss, che ci facciamo raccontare dal nostro Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, esce in DVD e Blu-ray la seconda prova della casa Filmauro, che da sempre è produttrice di cinepanettoni, di qualificare questo genere che ultimamente sta decisamente arrancando. prepara una commedia natalizia non triviale nei pecoreccia, affidandola ai mattatori Lillo e Greg, che sostituiscono, diciamo, a quella che è diventata un po' la bassa farsa scorreggiona che andava di moda ultimamente, una ronda di equivoci surreali e sanamente demenziali, tenendo anche in luce una parodia del genere maggiormente di moda, ovvero quello dell'Italia criminale da Gomorra a Suburra. Il fatto che ci sia Peppino Di Capri in doppio ruolo dice tanto del gioco sulla cultura popolare che fa il film. Le caratteristiche tecniche dei dischi sono veramente nella media del prodotto, ma gli extra sono nutriti. Backstage, interviste a cast e regista, sketch e papere sul set e anche la web serie completa Lo Stagista, che è stata girata sul set. E questo è il nostro game della scorsa settimana. Giulio, un'occhiata ai palinsesti invece della prossima, per ricordare già domenica 8 maggio la sera su Rai Movie alle 21:15 Rocky Balboa di Sylvester Stallone. Sì, Rocky gestisce un ristorante italiano, va tutti i giorni sulla tomba di Adriana e suo figlio addirittura quando può cerca di evitarlo. Decide di tornare sul ring quando una simulazione del computer lo indica come l'unico in grado di battere quello che è l'attuale campione in carica. A 30 anni dal primo capitolo, Stallone torna al personaggio che l'ha consegnato alla leggenda, con un film che non è tanto nostalgico, ma è veramente fieramente presente, come a rivendicare una serie di valori come la dignità e la volontà che oggi a Rocky sembrano scomparsi. Ovvio che non è solo di Rocky che si parla, ma è anche ovviamente un film di Stallone su Stallone e su quello che l'icona di Rocky ha rappresentato per il pubblico americano. Un film veramente classicissimo, ma a suo modo struggente. Appuntamento invece martedì 10 maggio su Rai Movie con una sorta di maratona che comincia alle 19:05 e finisce a notte inoltrata dei film di Ettore Scola, da C'eravamo tanto amati alla Famiglia a Una giornata particolare. Sì, veramente un tris di grandi film su Rai Movie per ricordare Ettore Scola a 85 anni dalla nascita. Si parte con C'eravamo tanto amati alle 19:05, come dicevi, che è quello che forse è il suo capolavoro, un film sugli anni 70 italiani dove non c'è più spazio per sogni e utopie. Poi la saga familiare borghese di La Famiglia alle 21:05, una saga che parte dal 1906 e arriva al 1986, una saga privata che racconta nel Pinello la storia di una nazione. E infine Una giornata particolare alle 23:25, storia del breve incontro tra una donna sola e un omosessuale emarginato nell'Italia fascista, in cui ancora una volta è facile comprendere tra quattro mura, insieme a due attori che sono veramente strepitosi, Sofia Loren e Marcello Mastroianni, lo spirito di un tempo. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine del nostro programma, giusto il tempo di salutarci, di darvi appuntamento a sabato prossimo alle 18, come sempre qui su Radio 24 con La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.